Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio. Si sta spalancando la finestra su un'altra giornata di tensione sui mercati finanziari. Le borse sembrano, ma potrebbe essere anche una quiete solo apparente, abbastanza tranquille in questo momento. C'è un rialzo di mezzo punto a Parigi e Francoforte, Londra più 0,58, Milano guadagna un punto, quindi i mercati del vecchio continente tentano di rilasciarsi di nuovo alle spalle una giornata nera, quella di ieri, che si è vissuta soprattutto su Piazza Affari, che ha perso il 3,7%, ancora le banche ad andare a picco, una giornata il cui andamento è stato un po' attribuito anche alle incertezze legate al possibile esito del vertice del fine settimana del Consiglio europeo, che dovrebbe dare indicazioni concrete su come risolvere la crisi del debito dell'Eurozona. E poi naturalmente ci hanno di nuovo ripensato le agenzie di rating a scoraggiare chi stamattina aveva iniziato la sua giornata con un umore diverso. Avete sentito anche nel nostro giornale radio cosa ha detto un manager molto importante di Fitch, una delle tre sorelle, parlando a Bruxelles. Questo tale David Reilly ha detto: crediamo fermamente che Italia e Spagna siano paesi solvibili, ma potenzialmente illiquidi per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato dove si finanziano. Ci sono sembrate delle parole piuttosto pesanti, che naturalmente non hanno fatto bene a quella che è l'ossessione delle nostre ultime settimane: lo spread, il differenziale di rendimento fra i nostri titoli decennali e il benchmark per eccellenza, il Bund tedesco. Stava già ieri, era ritornato a 400 punti base. Questa mattina pensavamo che si potesse ridurre di nuovo questo differenziale di rendimento, invece gravitiamo intorno a questo livello. Come dicevo nel giornale radio, quantomeno ci fa un po' compagnia la Francia, che pure adesso è diventato l'altro caso europeo, rischia di perdere la tripla A. Stamattina l'altra agenzia di rating, Standard & Poor's, ha fatto sapere le motivazioni per cui potrebbe tagliare il suo giudizio sul debito transalpino in caso di un peggioramento della situazione economica, che potrebbe riportare la zona euro in recessione. Standard & Poor's potrebbe tagliare il giudizio sulla Francia perché in sostanza appunto potrebbe pesare molto su questo paese una ricaduta nella crisi, una recessione double dip. Insomma, questo è un po' il quadro al quale evidentemente siamo abituati da molte settimane. E in ogni caso appunto le borse oggi risentono un po' di nuovo di questa pressione, anche se su Piazza Affari qualche rimbalzo dei titoli bancari dopo i tracolli di ieri c'è. Intesa guadagna 4%, Unicredit più 3,72. Erano un po' più vivaci i titoli prima della presa di posizione da Bruxelles dell'agenzia Fitch, guadagnavano oltre il 6%, però insomma il recupero ancora resiste. Abbiamo oltre 3 punti di guadagno anche su Luxottica, su Buzzi Unicem e su Banca Monte dei Paschi, mentre in negativo in questo momento abbiamo Enel che perde l'1,36% ed è nel Green Power lo 0,78%. L'avvio di trasmissione che mi ero preparata era molto diverso, però siccome in realtà il tema che approfondiamo oggi è molto correlato all'andamento dei mercati finanziari, ho ritenuto opportuno di fare anche tutto questo presupposto. Ci sembra importante perché naturalmente quello che è accaduto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sui mercati finanziari ha avuto delle inevitabili ripercussioni anche sulle prestazioni, le performance e i rendimenti degli strumenti di previdenza complementare che negli ultimi anni gli italiani hanno scelto per costruirsi la pensione di scorta. E allora per la verità non abbiamo ancora i dati relativi al terzo trimestre, quello che è stato davvero il più turbolento dell'ultimo anno, li conosceremo tra qualche settimana, però abbiamo ritenuto lo stesso necessario fare un punto della situazione con il nostro Marco Lo Conte, che saluto. Marco, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E con Flavio Casetti, segretario generale di Asso Fondi Pensione, che è l'associazione rappresentativa appunto dei fondi pensione negoziali, fondi di categoria. Faccio i soliti esempi per farmi capire bene dagli ascoltatori: il Comet per i metalmeccanici, Fonkim per i chimici e tanti altri ancora. Dottor Casetti, buongiorno e grazie di essere ritornato con noi. Allora, chiaramente microfoni aperti sempre anche ai nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Il tema è oggi: qual è la vostra riflessione sulla costruzione di una pensione di scorta? Avete già scelto negli ultimi anni lo strumento di previdenza complementare più adatto alle vostre esigenze o anche complice la crisi economica, al momento questa scelta l'avete rinviata, pur essendo sensibili all'argomento e pur ritenendo appunto importante cominciare a pensare anche alla costruzione di questa spalla che sarà utilissima e fondamentale quando andremo in pensione. Allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre considerazioni, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Io ho aperto anche il nostro indirizzo di posta, che è come sempre salvadanaio@radio24.it. Dottor Casetti, io comincio da lei. I dati relativi alle performance dei fondi negoziali del terzo trimestre li conosceremo solo tra qualche settimana. Qual è la sua sensazione? Possiamo già avere delle anticipazioni? Certo, perché i dati sono pubblicati su tutti i siti dei fondi pensione già da alcuni giorni. La sensazione è che nel trimestre chiaramente anche i fondi pensione negoziali non hanno fatto miracoli e quindi registriamo delle perdite nei valori quota, però che si aggirano intorno all'1-2% nei comparti bilanciati obbligazionari e un po' più alte ovviamente in quelli con maggior contenuto azionario. Quindi perdite, diciamo a contenere il danno. Allora la ringrazio intanto per questa anticipazione che è stato in grado di darci. Credo che qualche dato lo abbia anche domani Plus 24 del Sole 24 Ore. Marco Lo Conte. Sì, niente, abbiamo appunto consultato i siti web dei fondi pensione, incrociato i dati con quanto i fondi ci hanno comunicato e sì, risulta sostanzialmente la media di una flessione intorno allo 0,9%. Inevitabile, perché quanto accaduto nel trimestre luglio, agosto, settembre 2011 non potevano ripercuotersi sull'andamento del mercato. Beh, tutto sommato mi sembra un dato alla adesso fine, non sì, per sponsorizzare e sposare come la causa del fondo pensione di un altro strumento di previdenza complementare, solo da analizzare la cifra. No, beh, ma il punto è che diciamo c'è da analizzare un po' la tipologia di ripercussione. Allora, ricordiamo che la crisi dei mercati azionari ha portato in un trimestre a un calo dell'indice Eurostoxx 50 europeo, dei 50 principali titoli azionari europei, del 22,23%, ossia oltre un quinto della capitalizzazione è stata bruciata in un trimestre, per cui non cose da poco. A ciò, e questa è la singolarità del trimestre, si è aggiunta la crisi del credito sui debiti sovrani europei, Italia in particolare, ma non solo, che ha inciso anche sui titoli di Stato nei portafogli di tutti, compresi i fondi pensione che investono nei titoli di Stato europei quasi 50 miliardi di euro, quindi cose non degli investitori poco, estremamente qualificati. È inevitabile che ci sia una ripercussione. Ecco, il calo dell'1% circa non è una roba da stracciarsi le vesti, ma bisogna analizzare un po' nel dettaglio, come faremo domani su Plus 24, su quali linee, perché è abbastanza inevitabile che sulle azionarie e sulle bilanciate ci siano. Poi alla fine le bilanciate non hanno perso neanche più di tanto. Si registrano flessioni non trascurabili anche sulle linee garantite, ma le linee garantite sono da capire, perché la garanzia scatta in base ad una serie di prescrizioni di legge, ossia premorienza, invalidità, inoccupazione per 48 mesi. Questi i dati, quello cosa prescrive la norma. Molti fondi aggiungono altre prestazioni per le quali poi scatta la garanzia, ma se per caso un aderente, e questo è il caveat da lanciare ai nostri ascoltatori prima di tutto, volesse trasferire oggi la propria posizione da una linea garantita a una linea azionaria, ad un'altra dinamica, linea dinamica, diciamo, si chiamano così generalmente, incasserebbe sostanzialmente il valore quota attuale, quella che ha subito la flessione, per cui attenzione a compiere la scelta giusta, anzi attenzione a compiere la scelta sbagliata, bisogna guardare bene qual è quando scatta il meccanismo. Ci sono dei fondi pensione, per esempio, che in qualsiasi circostanza garantiscono la garanzia prevista dalla normativa, e il valore quota conta relativamente. Certo, a proposito del trasferimento, Marco, poi magari sento anche il dottor Casetti se ha qualche notizia relativamente a questo. Ti risulta che proprio alla luce della forte volatilità che i mercati hanno tornato a manifestare nel corso degli ultimi mesi, ci sono state molte tentazioni di trasferimento da una linea di investimento ad un'altra, da un comparto ad un altro all'interno degli stessi fondi? Io non credo, però proprio su questo abbiamo Casetti a disposizione che ci può confortare e darci sicuramente un'indicazione di prima mano. Certo, dottor Casetti, prima di entrare nel merito di questo, le chiedo oggi come oggi qual è il tasso di adesione ai fondi pensione negoziale? Forse non ci sono stati grossi movimenti negli ultimi mesi, no, complice anche la crisi. Grossi movimenti, teniamo conto che i fondi pensione contrattuali o negoziali sono fondi di lavoro dipendente, che hanno un forte insediamento nelle imprese più strutturate e quindi con un clima di crisi economica nazionale, crisi occupazionale, ovviamente è un successo mantenere il livello degli iscritti. Siamo sui 2 milioni no, di adesioni al 30 giugno di quest'anno, un dato che è rimasto sostanzialmente invariato, diceva il Casetti, rispetto alla fine dello scorso anno. Ecco, relativamente allo spostamento delle posizioni, avete una fotografia, un monitoraggio? Devo fare un'affermazione di carattere generale. Da parte degli iscritti ai fondi pensione non c'è un eccessivo dinamismo nella scelta dei comparti. C'è una certa inerzia, ma questo è un dato generale che riguarda i fondi pensione di tutto il mondo. Nell'ambito di quelli che cambiano comparto, che sono pochi, non abbiamo notato spostamento verso i comparti garantiti, anche perché chi cambia comparto è un investitore, diciamo, evoluto, è uno che pensa al suo investimento, quindi sa che cambiando comparto in un periodo di bassi valori 4 realizza solo delle perdite, insomma, no? Sì, potrebbe e anche essere che una con evidenza di questo fenomeno l'abbiamo all'iscrizione, i nuovi iscritti noi vediamo, ad esempio nel fondo di cui io sono direttore c'è una prevalente disposizione anche per i più giovani verso i comparti garantiti, c'è una preoccupazione fin dall'inizio, diciamo. Quindi paradossalmente magari mentre il mercato azionario adesso avrebbe adesso anche qualche lo so, però quando uno d'altronde come dire mette da parte del denaro per costruirsi la propria pensione cerca di fare un investimento che chiaramente ritiene sicuro in questo momento, a guardare da quello che succede in borsa, hanno la freddezza di poter valutare il mercato come un'occasione, un serbatoio di opportunità. Marco Loconte, oggi abbiamo i microfoni che ci disturbano da ogni più. No, la colpa è mia. Stai toccato, fermo lì per carità fermo. Del cielo. No, manca quello che manca al limite è un discorso un po' più consulenziale, ossia chi glielo dice al neo iscritto su quale linea è opportuno posizionarsi a 30 anni, poi a 40, poi a 50. Questo è diciamo l'anello mancante della catena previdenziale dei fondi di categoria italiani in particolare, ma se posso sottolineare un punto secondo me importante, il fatto che ci siano delle crisi finanziarie e che queste incidano sulle gestioni dei fondi pensione ha un peso relativo, come abbiamo visto nel 2008 ha inciso con dei ribassi anche superiori al 6%, nel 2009 queste performance sono state compensate tra il 2009 e il 2010. Ora io ritengo che nel prossimo futuro ci saranno altre ripercussioni dalla crisi e dall'andamento dei mercati sui non fondi. È sicuramente ma finita non, qua non è detto che questo non crei però nelle fasi successive una ripresa adeguata. Allora il punto è come organizzarsi per fare in modo che non ci sia proprio un travaso totale, no? Allora ricordo che i fondi pensione sono a contribuzione definita e non a prestazione definita, ma allora come fare filtro, come fare in modo che non si scarichi sull'aderente tutto il rischio o almeno buona parte del rischio finanziario. Allora, infatti ci sono molte novità e adesso ne parliamo nella seconda parte della trasmissione, dove peraltro ci darai anche la definizione di prestazione definita e contribuzione volentieri definita, e in più ti preparo anche un'altra domanda. Non ci sarà bisogno di grande riflessione perché dovrai darmi semplicemente un numero e molti ascoltatori naturalmente ci chiedono e allora il TFR quanto ha reso in questo stesso periodo, mentre i fondi complessivamente hanno fatto meno 0,9 in questo trimestre. Adesso andiamo anche a calcolare per gli irriducibili del trattamento di fine rapporto. Naturalmente dobbiamo tenere conto anche delle esigenze di informazione di questi ascoltatori. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, in tutto questo parlare questa mattina di fondi pensione, abbiamo anche un monitor vicino a noi dove c'è la benedetta Parodi che cucina la grande degli involtini di pesce spada. Io, Marco Loconte, qua ci stiamo sentendo male perché l'orario è critico e come sempre abbiamo una gran fame. Detto questo, abbiamo anche fame di informazioni sulle prestazioni dei fondi pensione. E come abbiamo detto appunto all'inizio, naturalmente anche la pensione di scorta dei molti italiani, delle centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto appunto uno strumento di previdenza complementare negli ultimi anni, hanno subito degli scossoni, delle oscillazioni, e chiaramente in questo momento magari qualcuno ha ricevuto il rendiconto della prestazione del proprio strumento di previdenza complementare e non è rimasto molto soddisfatto. Peraltro, Marco Loconte, ogni quanto arrivano i rendiconti dei fondi? Ogni quanto? A prescindere dal fatto che sono agli aderenti ogni anno, quindi annualmente abbiamo il documento, quindi io ho detto però si può controllare sul fondo prescelto, sul sito del fondo prescelto, certamente, come stanno andando, quindi è tutto pubblico. Allora, e noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci un po' intanto quale fondo hanno scelto, ne sono soddisfatti, quali sono appunto le considerazioni che fanno su questa scelta magari fatta nel 2007 quando la riforma del TFR ci ha dato l'opportunità di sottoscrivere uno strumento di previdenza complementare o mantenere il TFR maturando nella nostra azienda. Anche su questo, Marco, il TFR quanto ha reso nel trimestre considerato da Plus? All'incirca lo 0,9%. Il TFR? Sì. Ah, hai fatto il conteggio poco fa, quindi sì. Diciamo che mentre per la performance dei fondi negoziali meno 0,9. Meno 0,9 più 0,9 il TFR, stiamo parlando di una differenza, di una forbice di 1,8 punti. Ci ricordi ancora la formula per calcolare la performance del TFR conservato in azienda? Il TFR viene rivalutato al tasso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione. All'incirca siamo quindi, andato intorno. Il presupposto è il 2,8% medio. Anzi, scusa, un po' meno perché dimenticavo un dettaglio. Sì, lo 0,79%, diciamo lo 0,8% ha reso il TFR. Vi giuro che Marco non ha una calcolatrice sotto le mani. Avevo due in matematica, poi mi sono reso conto che quella era la mia vocazione, che tengo ancora un po' nascosta. Allora, dottor Casetti, non mi sono dimenticata di lei naturalmente. Abbiamo con noi questa mattina anche il segretario generale di Asso Fondi Pensione, che è l'associazione rappresentativa dei fondi pensione negoziali, Flavio Casetti, al quale adesso giro alcune domande dei nostri ascoltatori, come per esempio quella di Paolo da Macerata, che ha qualche dubbio sul fondo a cui ha aderito, è uno dei più grandi in Italia, Fonkim. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi, salve. Buongiorno, ci dica. Io sono iscritto a Fonkim dal 2005, la mia scelta è anticipata rispetto al 2007. Quella che è la mia perplessità è il fondo è abbastanza agevole attraverso la consultazione via internet, ma la mia perplessità è legata al fatto che materialmente non posso valutare il tipo di investimento che ha il comparto in cui aderisco. Quale comparto ha scelto? Io il crescita. Quindi è quello un po' più dinamico, diciamo, sì. Più dinamico, aggressivo. Sì, mercato azionario, così tanto per sintetizzare ulteriormente. Quello che vorrei capire è come poter valutare il tipo di investimenti, quuali sono materialmente gli investimenti e le azioni, certo, che vengono. Qual è diciamo la scelta che fa il gestore che gestisce il suo portafoglio in qualche maniera, Paolo? La ringrazio. Sentiamo un po' il dottor Casetti cosa risponde a chi esprime, come dire, riflessioni di questo tipo. Vorrebbe avere accesso un po' più nel dettaglio al lavoro del gestore. Paolo, oggi fino a quanto è possibile monitorare? La pensione attuano tutti una gestione per mandato, cioè selezionano dei gestori a cui affidano secondo particolari criteri e limiti degli obiettivi da raggiungere e una gestione da fare. Dopodiché la gestione è in capo al gestore. Noi gli diciamo investi in titoli azionari Europa per questa percentuale, titoli. C'è l'asset allocation, si chiama, no? America, sì. tanto in titoli di Stato, poi è il gestore che seleziona i titoli, fa parte del suo mestiere. Ovviamente noi abbiamo evidenza di tutti gli investimenti che fa, perché il gestore movimenta i nostri conti, non è che gli affidiamo i soldi. Non è una delega in bianco, diciamo, al gestore. Esatto. Quindi abbiamo totale evidenza del. Quello che l'iscritto può vedere già ora, ad esempio nei bilanci che tutti i siti che tutti i fondi pubblicano sui siti, c'è ad esempio sono elencati i primi 50 titoli per importanza, sono elencati i paesi in cui si investe, c'è già una serie di informazioni. l'informazione di dettaglio non viene pubblicata in genere dai siti, ma qualcuno pubblica. Fonchin è uno di quelli che ha il maggior livello di informazione. Addirittura, quindi Paolo è pure insoddisfatto, quindi immaginiamo perché ne abbia un livello. No, è il primo fondo pensione negoziale costituito e ha sempre investito in informazione, quindi da questo punto di vista... Ecco, io penso che se si rivolge direttamente al fondo può ricevere anche informazioni più dettagliate, se lo ritiene. Ecco, normalmente, devo dire, purtroppo gli iscritti non ci fanno queste domande. Ah, certo. Allora, quindi magari invitiamo Paolo a mettere alla prova, come dire, la comunicazione del fondo per vedere anche che cosa gli rispondono ed effettivamente fino a quanto si spingono anche nel divulgare informazioni di questo tipo. Quale tipo di diritto di informazione abbiamo dal nostro fondo pensione, Marco? Beh, insomma, diritti importanti, i soldi sono degli iscritti, sono i soldi dei lavoratori che sono affidati ai fondi gestione, ai fondi pensione, perché li mettono a frutto per produrre una pensione di scorta. Ecco, ma loro per esempio, intanto che obbligo informativo hanno? Quanto deve essere dettagliato il documento, il prospetto che inviano ogni anno, come ci dicevi tu prima, in primavera? Il prospetto fa la fotografia del patrimonio messo in gestione, della sua rivalutazione nel tempo, e dall'altro anno anche è obbligatorio che il fondo produca una stima di quello che quel patrimonio produrrà in termini di rendita quando andremo in pensione, quando sarà meglio e questo è un elemento, anche questo è un elemento importante di trasparenza. Evidentemente uno vorrebbe sapere di tutto di più, insomma, i primi 100 titoli, se non i 50, magari, se non proprio nel bilancio che viene redatto una volta all'anno, potrebbe essere utile per esempio pubblicarlo sui siti internet degli stessi fondi. Poi sottolineiamo, i fondi pensione sono tra gli strumenti in assoluto più trasparenti per quanto riguarda la loro gestione, che è fatta da una struttura che è il fondo, il gestore che riceve un mandato e, sottolineo, anche la banca depositaria, che è quella che fa tutta l'operatività e che risponde non al gestore ma al fondo, e che quindi dà una totale visibilità su quello che sono gli asset. Infatti gli stessi fondi possono vedere ora per ora se un titolo ha un problema, qual è la ripercussione sull'intera prestazione del fondo. Peraltro c'è anche da ricordare che c'è una normativa di opacità. Non c'è un problema di opacità, c'è su molti strumenti, ma francamente esatto, no, c'è di più, vorrei dire anche che c'è anche una serie di paletti molto precisi relativamente ai limiti dell'investimento che un fondo pensione ha. Tutto questo è contemplato all'interno di un decreto ministeriale, il 703 del 96, lo cito perché so che è anche al centro di una discussione all'interno della categoria molto vivace sulla riforma di questo decreto. Per quale motivo, Marco? Perché questo decreto è del 96, ha 15 anni, è grandicello, si potrebbe anche cambiare con un altro, anche perché questo decreto sostanzialmente prevede di investire quasi esclusivamente in azioni e in titoli di Stato, tanto per essere un po' grossolani, ma non ci si allontana molto. Ora, questo trimestre ci dice che investire soltanto in azioni e soltanto in titoli di Stato è assolutamente deleterio. Bisogna trovare altri strumenti, altre formule, altri asset, per esempio decorrelati con l'andamento dei mercati, alternativi rispetto ad alcune performance, diversificati comunque, che consentano di allontanarsi da queste crisi, che consentano per esempio di aumentare l'esposizione dei fondi pensione, ora ridottissima, ai paesi non OCSE, cioè ai paesi emergenti, che, come tutti ormai sono esclusi quasi del tutto. Quindi mi stai dicendo che un fondo pensione azionario investe solo sulle borse europee, sulle borse americane, sul Giappone, non lo so su che cos'altro, ma non sul Brasile, pochissimo. Sul Brasile quasi nulla, ci sono dei limiti molto ristretti, bisognerebbe allentare, quindi è opportuno sottolineare, non andare sui derivati finanziari per essere chiari, però ecco, individuare degli strumenti che possono essere un po' più efficienti. I derivati servono per copertura, i fondi pensione li usano per copertura, per esempio dal rischio cambio, quando si investe in titoli americani. Come si fa a non investire negli Stati Uniti quando si ha un portafoglio consistente? Però c'è un rischio valutario che non si può trascurare, per cui è opportuno coprirsi, non speculare, coprirsi evidentemente. Poi ci possono essere per esempio altre formule, per esempio i fondi pensioni italiani costano pochissimo, costano un decimo rispetto ai fondi pensione olandesi, che sono diversi dai nostri ma sono un benchmark internazionale. Allora mi chiedo, ma spendiamo tanti soldi in sciocchezze, lo posso dire, parlo di me, non mi permetto di criticare nessuno, parlo di me, spendiamo tanti soldi in sciocchezze. Vogliamo spendere 2 lire in più per avere dei fondi pensione migliori? È una cosa che è sostenibile, la spesa di, invece che 20-30 euro al mese, all'anno, chiedo scusa, all'anno, invece di 30 euro all'anno spendiamone 60, non dico 100, 60, qualcosa di più, e però portiamo a casa dei rendimenti migliori, diamo delle strutture più adeguate, certo, la questione interessante è avere la certezza che questo nostro investimento aggiuntivo effettivamente produca dei risultati. Allora Riccardo, eccoci a lei, buongiorno. Buongiorno, allora, in parte avete cominciato già a rispondere alla mia domanda, nel senso che ritengo che la legge sui fondi pensione italiana, così com'è, sia, per dire alla Fantozzi, una boiata pazzesca, per una ragione molto semplice, che se facciamo il confronto con leggi più serie, con quella cilena o altro, quelle garantiscono un minimo di ritorno dell'investimento superiore all'inflazione, come d'altra parte in parte garantiva il TFR. Ora, se consideriamo la rigidità dei fondi pensioni e l'assenza di rendimenti garantiti, ne deriva che, a mio parere, non risulta assolutamente conveniente aderirvi, per cui le riforme da fare sarebbero assolutamente gratis, a mio parere. Cioè, garantire un rendimento e, come si è stato già accennato, rendere più flessibile la scelta. Non è possibile che uno entri in un fondo e poi praticamente è quasi, tra virgolette, costretto a rimanerci. Va bene, Riccardo, si fermi lì, sentiamo un po'. Allora, Casetti, lei lo sa che Marco Lo Conte ce l'ho qua, purtroppo, se non lo faccio parlare. No, lei. Ma... Marco, dimmi. No, dico solo che non è vero che non ci sono garanzie di rendimento. Le linee garantite offrono proprio questa garanzia. Certo, non in tutti i secondi, a seconda della serie di prestazioni che sono definite dalla legge e che sono considerate quelle fondamentali. Altre, come dicevo prima... Quello è il concetto della prestazione definita? No, questo è il concetto. È il concetto della garanzia di rendimento in caso di pensionamento, premorienza, invalidità permanente, inoccupazione, disoccupazione, insomma, per 48 mesi, e alcuni fondi aggiungono altre caratteristiche. Lì la garanzia è assicurata, anzi, sottolineo che una dozzina di fondi come rendimento garantito offrono proprio il TFR, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, cioè invece se uno vuole proprio il tasso del TFR lo può fare anche attraverso un fondo pensione. Casetti, voleva aggiungere qualcosa rispetto alle riflessioni fatte dall'ascoltatore da Bergamo? Detto bene Lo Conte, le gestioni garantite, siamo obbligati ad avere delle gestioni garantite dalla legge per quanto riguarda i lavoratori taciti, gli aderenti taciti, ma sono comparti accessibili a tutti, tant'è vero che prima dicevo che c'è in questa fase anche troppa attenzione verso i comparti garantiti. Nel fondo in cui sono io direttore si garantisce il rendimento TFR. Esatto, allora le chiedo, dottor Casetti, perché credo che questa sia una provocazione che adesso volentieri vi lancerebbero molti ascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, se io ho un fondo pensione che mi garantisce la stessa identica prestazione delle TFR, per quale motivo devo spostare il mio trattamento di fine rapporto dall'azienda ad uno strumento di previdenza complementare? Qual è il vantaggio? Perché verso degli altri contributi miei prendo il contributo dell'azienda, quindi queste sono qualche risorsa in più, e poi perché spero di far meglio. Quello è il minimo garantito. Esatto, quello è il minimo garantito. Dico, sotto non posso scendere, in più c'è il contributo. Quindi non è che il gestore ha il vincolo di fare parte del mio risparmio previdenziale, nel senso che posso decidere anno per anno di versare l'uno che prevede il contratto, ma anche di utilizzare di più l'agevolazione fiscale che ho in termini sui contributi a mio carico. Allora, c'è un ascoltatore da Crema che adesso non facciamo intervenire perché ne ho già 2 in linea, credo che ci basteranno per concludere la trasmissione, anche perché Bruno ha una domanda talmente complessa che davvero richiederebbe di andare avanti con la nostra programmazione fino alle 5 di oggi pomeriggio. Un ascoltatore che vorrebbe intervenire ci chiede che non riesce a contattare, qui dovremmo avere il nostro amico Maurizio Agazzi con noi, il numero di telefono di Fondo Cometa, non gli arriva più la documentazione, gli sembra assurdo, e adesso qua può essere successo di tutto, un disguido postale, una variazione di indirizzo, non so che cosa. Prendiamo il nome poi. Esatto, Roberto, poi magari vediamo, ma per esempio, siccome stiamo parlando anche di uno dei fondi pensione appunto più grandi d'Italia, è abbastanza curioso che lui non riesca ad accedere ad un contatto. Questi fondi, Marco, hanno dei call center, come possiamo? Alcuni fondi pensione hanno un call center che funziona come una vera e propria struttura che consente di fornire delle indicazioni quasi consulenziali, mi viene da dire, a volte con una struttura consulenziale radicata invece sul territorio. Con, ma poi ci sarà anche un indirizzo di posta elettronica, un info, adesso non mi ricordo bene sul sito di Cometa com'è, però Roberto andremo a controllare. Bruno da Prato, buongiorno, si rende conto di che tipo di domanda ci sta facendo lei? Sì, buongiorno, ciao Debora, un saluto anche a Marco, lo seguo sul blog, è interessantissimo. La domanda è sì, in effetti forse non riusciamo, il tempo è poco, però diciamo così, fra costi, rendimenti ed eventuale contributo del datore di lavoro per chi sceglie il fondo negoziale, qual è di questi tre il parametro più importante per chi si trova a dover scegliere un fondo pensione e di conseguenza poi un comparto? Qual è quello prioritario rispetto agli altri di questi tre? Bruno, la ringrazio. Giro, faccio fare il consulente a Flavio Casetti, perché io ce ne vorrei aggiungere anche un altro. Io vorrei aggiungerci intanto, come dire, le nostre aspettative, che tipo di lavoro stiamo facendo, qual è la nostra situazione attuale, quale potrebbe essere in prospettiva, perché chiaramente anche il mix di questi tre fattori cambia radicalmente. Forse non dobbiamo analizzare la situazione solo dal punto di vista delle caratteristiche di fondo pensione. Dottor Casetti, dobbiamo anche tenere in considerazione qual è la nostra situazione, il nostro posizionamento nel mondo del lavoro. Esatto, la nostra prospettiva di carriera, la nostra situazione patrimoniale e familiare è importante più nella scelta del comparto, però, che nella scelta dello strumento. Se ho ben capito la domanda, si dice c'è chi valorizza, come facciamo nei fondi negoziali, l'aspetto costi bassi. E il contributo del datore di lavoro rispetto ad altri elementi, come ad esempio il rapporto di vicinanza con una rete di vendita. Questi sono noi riteniamo, abbiamo fatto una scelta precisa, quello di puntare sull'efficienza dei costi. Noi abbiamo un'idea sintetica dei costi che è solo 0,23. Marco Lo Conte ci critica sempre per questo, perché costiamo poco e investiamo poco in strutture. Dovremmo trovare un equilibrio migliore, probabilmente. Ma il contributo del datore di lavoro è molto importante, perché si aggira sempre tra l'1 e l'1,50 della retribuzione. Forse tra tutti e tre, davvero, non lo so, tu Marco, tra i tre elementi indicati dall'ascoltatore, che in questo momento lui vuole sapere, insomma, qual è l'elemento vincente del fondo, vuole fare un esame, un check-up della sua situazione previdenziale alternativa solamente guardando alle caratteristiche del fondo. Bisogna guardare di più ai costi, di più ai rendimenti, di più al contributo del datore di lavoro. Tutti e tre. 33%. Anche questi sono alcuni delle cose, degli elementi da considerare, ma sicuramente questi tre sono i più importanti. Allora, intanto il nostro bravo Marco Lombardo ha trovato il numero di telefono del call center di Cometa, che è attivo da lunedì a venerdì, lo diciamo all'ascoltatore appunto che non riesce a contattare. Lui tra l'altro forse lo conosce già, ma dice che non riesce a contattarlo. Comunque 02 255 361, l'abbiamo recuperato dal sito. In alternativa c'è l'indirizzo email posta.aderenti@cometafondo.it. più di così non sappiamo che dire, e se non rispondono, Roberto ce lo dica. Angelo da Varese, l'ultima domanda deve essere telegrafico. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere una cosa, io sono un lavoratore autonomo e ho sottoscritto un fondo pensione. Quello che non si dice mai però è che alla fine, quando ci sarà un montante globale che verrà tradotto in pensione con determinati... Certo, in rendita mensile, ovvio. In rendita, ecco. Nessuno dice però che se si va a vedere nei vari aziende, ci sono dei coefficienti diversi, no? E questa trasformazione da montante a pensione finale ha dei valori diversi. Diversi, no? Certo. Quindi anche quello è un altro elemento che incide e influisce, appunto, nella scelta. L'importante è poterlo sapere sin dall'inizio, Angelo. Lei lo ritiene discutibile questo? Però, chiaro. Però sto dicendo, dato che io un fondo pensione, però io posso passare da una società ad un'altra, io ho la possibilità verso la fine, quando andrò in pensione, no, di cambiare sulla società che avrà il coefficiente migliore per lei, migliore. Angelo, non lo so se questo è facile, no. Certo, Marco ci dice così, dice magari per 20 anni faccio tutto, costruisco tutta la pensione su un fondo e poi all'inizio, alla fine me lo faccio liquidare da un altro, nel senso trasferisco tutta la posizione. Sono squadre che giocano bene in difesa, altre che giocano bene in attacco. Ma sono il coefficiente fondi che di trasformazione in reddita è tanto differente da una società ad un'altra, Marco, perché se questo diventa un elemento qualificante anche nella scelta della sottoscrizione iniziale, c'è, adesso bisogna fare i calcoli precisamente e sono molto articolati. articolati e complessi. Però ci ha posto un bel tema l'ascoltatore. I coefficienti sono basati sulle tavole della Ragioneria Generale dello Stato, RGS 48, quelle più antiche. Sono state ormai quasi tutte sostituite dall'IPS IPS 55, che utilizzano il 1955 come... Mamma mia, come mi finisci come la puntata con una roba complicatissima. Comunque, così come c'è il coefficiente di trasformazione... L'aspettativa di vita cambia. Cambia. Allora, magari teniamo questo tema così al caldo per affrontarlo in maniera più approfondita in un'altra occasione. Grazie ad Angelo, grazie a Flavio Casetti di Assofondi Pensione di essere stato con noi. Marco, domani copertina di Plus 24 sulle banche popolari, esatto. L'Assemblea della Popolare di Milano. Anche. E poi domani ricordiamo che in edicola c'è Tutto Risparmio, il libricino a 50 centesimi di euro, appunto, Come proteggere i soldi, gli strumenti della famiglia, ha fatto anche la signorina. Buonasera, grazie a tutti, ci ritroviamo qua come sempre puntuali lunedì. Buon fine settimana a tutti.